Un accordo direi storico perché riusciamo ad avere due aree a disposizione, due caserme. Come sapete la nostra amministrazione tiene molto alla riqualificazione delle caserme dismesse. Qui avremo funzioni sia abitative che parchi, aree verdi, nuove funzioni pubbliche per la città che definiremo facendo partecipare i cittadini. Devo ringraziare in particolare il ministro Crosetto col quale ci siamo sentiti in questi mesi, il viceministro Bignami, l'Agenzia per il Demanio che è protagonista di questa operazione e che si assume anche l'impegno di aiutarci nelle progettazioni e anche nella realizzazione in particolare di uno studentato. Per la Stamoto saremo noi quelli che riceveranno con una permuta quest'area e quindi svilupperemo, e per quanto riguarda invece la Perotti rimarrà di competenza del Demanio, noi lavoreremo collaborando dal punto di vista urbanistico. Sono due esempi importanti di quello che si può fare nel dialogo fra lo Stato e le amministrazioni locali e credo una risposta molto importante, un tassello molto importante per il nostro piano per l'abitare che abbiamo presentato. Quando verrà attuato questo protocollo? Da oggi è operativo e quindi parte subito il gruppo tecnico per quanto riguarda la Stamoto, sia sulla gestione temporanea sia sulla permuta, quindi ci saranno i tempi di fatto burocratici, il passaggio in consiglio comunale per la permuta, io spero davvero in 6 mesi riusciremo a fare la permuta, dopodiché parte tutto l'iter urbanistico e la progettazione insieme ai cittadini. Per quanto riguarda la Perotti, ovviamente sta al Demanio a questo punto presentare una proposta, c'è anche questa ipotesi di lanciare un concorso internazionale all'interno del programma C40 che abbiamo già utilizzato per l'area del Ravone e che ha dato ottimi risultati per il momento, ci può permettere di attirare investitori e le migliori esperienze a livello internazionale dal punto di vista della transizione energetica e della sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda gli studentati, i prezzi saranno prezzi di mercato, saranno calmierati, si è già un'idea anche sul numero dei posti? Il numero dei posti è presto, certamente l'obiettivo che abbiamo è di fare in modo che siano accessibili agli studenti, soprattutto a quelli che non sono in condizione di poter affrontare importanti spese. L'idea di studentati pubblici va in questa direzione.